No, a te sto dicendo, se sollevi a te stai aumentando gli acuti. Così me l'hanno fatto regolare, mi hanno detto che così fa meglio. No, non so come sei regolato in altre posizioni, io ti sto dicendo, quando lo metti a 7 aumenti gli acuti, se invece li riduci, diminuisci gli acuti, aumentano i bassi. Ho capito, no. Comunque dice che a me mi si addice più così. Sì, no, è abbastanza naturale la voce. Se vuoi fare la prova, lascia a 7 e poi mi dici me, io ti metto a 0 oppure al massimo e ti dico cosa cambia se vuoi. Ebbene, questo di settla. No, non lo vedo bene. Ok, vabbè, adesso lo posso muovere. Non vedevo bene perché è presente la cosa del potenziometro, c'è quella striscia bianca, si è un po' svanita prima di girare e fare. Quindi non si vedeva bene a che livello era. Sono esattamente a 6 e qualcosa, non a 7. Tu lo sai cosa fai quella cosa? Prendi il pennarello indelebile con la punta sottile, glielo ripassi in rosso come ho fatto io. Ecco, perché al buio non si vede di certo, ho dovuto mettere la pila per vedere. Ok, adesso ti memorizzati quella posizione, come te l'hanno regolata loro, e poi mettimola a 0 e mi dici adesso è a 0, è proprio a parlare. Ora è a 0, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, scusa, non ho acceso niente, prova a parlare. Prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso mettilo a metà. Brigade, brigade. Un attimo. Quindi a 2? No, facciamo le tre posizioni, 0, metà e massimo, così vediamo cosa ti cambia di modulazione. Così, a metà. Un passaggio più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mettilo al massimo. E così al massimo. Prova a parlare con cosa al massimo. Ora, ora, ora, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, al massimo è bella. Adesso metti una via di mezzo tra il massimo e la metà. Quindi a 8, così guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. È bella, va bene anche così, non cambia più di niente da come ce l'avevi prima. Ma che distanza stai parlando già? Ciao, ce l'ho sulla gamba e sto parlando così. No, è buona, è buona. Mettila come era prima a 7, 6, 7 per vedere cosa cambia. Così è come era prima, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Io lo sento occupo, Roberto, sarà la radio mia, non lo so. Allora, adesso rimettilo al massimo un attimino al microfono, parliamo dei toni, sto parlando, ciao Claudio comunque. Ti ho capito, sì, i toni a 10 sono adesso. Allora fammi due passaggi, però ravvicinati, mi dici adesso è al massimo e questo è a 6 come era prima e vedo cosa cambia. Allora, questo è al massimo e questo qui è a 6. Cazzo, è strana la questione, non sai cosa, cioè quel cacchio di controllo è una cosa illogica, cioè quando tu lo metti al massimo ti attenua gli acuti anziché aumentarli, quando lo metti lo diminuisci te li aumenta, al contrario, boh, cioè non ha un'amplificazione di toni lineare, cioè è una cosa gussi deve essere questo controllo di toni. Vabbè, comunque quale preferisci tu, dimmelo, a me Massimiliano mi ha detto sul 6, Claudio invece sul 10, quale preferisci tu delle posizioni? Ti metti a 10 un attimino. Così a 10, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questa secondo me è un po' più naturale, l'altra è un pochettino più spinta di coso, di acuti, nell'altra posizione a 6. Buona anche quell'altra, però per i miei gusti è migliore questa. Quindi la lascio così, Claudio. Già, io se devo essere sincero non mi piace la modulazione, io la sento compressa, la sento chiusa, amplificazione ce n'è poco, la sento anche un po' metallica, poi se Roberto ti sente meglio va bene, a me non piace questa modulazione, nel modo più assoluto, mi piace più Saletta, questa non mi piace, non ha nessuna tonalità Roberto, io dico la pura verità, a me non piace. A me stamattina tu mi hai detto che ti piaceva lasciarla così, che era bella forte, che boh, io non so, diciamo la mattina a sera. Oh, sei tu diciamo la mattina sera, io ti ho anche detto poco fa nel canale 30 che cosa è successo, quindi non vuoi dare colpe a me, se io ti do un conto cambia, non è colpa mia, io cosa ne so, qui c'è radio, se fate un difetto di sera e non lo fate di mezzano, se il microfono fa un difetto di sera e non lo fa di mattina Gianni, che colpa mi saranno a me, Io stamattina ho fatto male a non registrarti, te l'avrei fatta sentire stamattina e adesso non mi piace la modulazione, io ti sento compresso, non hai nessuna tonalità, né acuti, né alti, né bassi, boh, è mediocre, è una modulazione mediocre per essere una radio, un 3009 con un MB+5, chi si ricorda del mio 3009 con l'MB+5 è tutta un'altra cosa, non lo so se è la mia voce, però a me questa non piace, è mediocre, non è che è brutta, attenzione, esci bene lo stesso, però è mediocre, non è una modulazione bella spinta come deve essere, capito? E vabbè, non c'è problema, lasciamo così, mediocre. Va bene, avanti, non... Aspetta che c'è il ritardino, avanti, ritardino. Ecco. Cosa hai detto ritardo? Registrato il blocco, cosa hai detto ritardo? Ho detto torno subito, adesso babbo mi ha chiesto una cosa e torno subito dentro. Ok, va bene, chi è l'altro che ha detto blocco? Avanti. Buonasera a tutti. Mamma mia, che molti della sua tocca stanno risuscitando. Che è successo a te? No, niente, sto scherzando, dai. Domanda per Gianni, ma quello è un 3009, non ha il bip, come mai? Come non ha il bip? No, scusa, ho distratto io. Però ricordati qual è il collo di bottiglia, Gianni, no? La LC. Ma scusa, non sta spingendo con questo microfono qua. Se mi sono ascoltato io, che te spingi un bel, poi io non lo so. Oh, è falsa quella la modulazione che mi dà nell'altro apparecchio, oppure io mi sento bello forte. Gianni, non fare mai le comparazioni con le cuffie in testa, è un'altra cosa quando tu ti stai ascoltando con una radio vicino. A lunga distanza il corrispondente è completamente diverso. Sai quante volte io mi regolo i microfoni fai da te? Poi chiedo i controlli e non vanno bene, o mi dicono di abbassare o mi dicono di aumentare, è un'altra cosa. Ascolta quello che ti diciamo noi, a fotti dini di come ti ascolti tu. C'è qualcuno che sta chiamando, avanti che vuole entrare. Secondo te Marco sta spingendo con l'MB+5 su quella radio? Io non lo so se sta spingendo, questo è un MB+5, la radio non è che cambi molto, è questa qua, sempre baracchini sono, eppure spinge. Ma c'è baracchino e baracchino. Lì non sappiamo tante cose, se la LC della M è aperto, non sappiamo se l'MB+5 è stato modificato o no. Per esempio il mio, se lo metto qua, che ho la LC ovviamente chiuso in quanto omologato, non spinge nulla. Se lo metto nell'altro 3009, ci siamo capiti, allora spinge di più. Se l'MB+5 è di fabbrica e non è modificato. Oh già, non lo so, poi dipende, può anche piacere o no la timbrica, ricordati. Io mi sembra come un po' afonami, tutto lì, mi sembra la voce mia in questi giorni, afona, tutto qui. Ascolta Gianni, ma tu c'hai il microfono normale di quella radio? Beh certo che ce l'ho, ma non ce l'ho portata di male, adesso l'ho conservato e mi devo arrampicare, eccetera. Certo che ce l'ho, c'ho tutto di questa radio, c'ho una scatola, la garanzia, tutto. Non fai cazzo a conservare il microfono normale, ti devi arrampicare, boh, non ti comprendo a te. I microfoni normali vanno tenuti a disposizione per fare le prove, perché adesso tu potevi fare per sapere se quella radio c'ha la LC della M aperto, capito? Mettevi il microfono normale, io facevo la comparazione tra la radio tua e quella di Marco, che più o meno avete la stessa modulazione, e mi accorgevo qual era più forte. Se più forte è quella di Marco col microfono normale, vuol dire che quella radio è chiusa, ecco perché non sta andando come deve andare. Andare, hai capito? Sì, vabbè, dai, non c'è problema, lasciamola così. Volete sentire l'MB+5 qua? Contate che la mia voce è messa male, lo senti, è afona. Ho fatto una mega cavolata anche oggi e mi ha beccato. Mi sono bagnato i capelli in macchina, poi con vetri aperti tutto, mi si è raffreddata l'acqua in testa e mi sta chiudendo la modulazione, stavo dicendo, mi si sta chiudendo la voce. Oh già, ma in quell'MB+5 nessuna modifica c'è, anche quella rettina, il cottone, come è messo quel microfono? È modificato. C'è il ponte, c'è la cosa, il cottone o quanta che sia. Ma la capsula cos'è? Di quelle rotonde piccoline? Com'è questa capsula? Verde, com'è? Sì, è quella lì. Io sto usando la MB+5, non lo so, vabbè. non sta spingendo come deve spingere. Bisogna fare qualcosa, Marco. Sicuramente è chiusa DLC con la radio, anche perché dove l'ha comprata l'ha lasciata normale sicuramente. Va aperta e tirata un po' già, per avere quella potenza in più, perché non puoi tenere il microfono al massimo, io ce l'ho a 5, non puoi tenere il microfono al massimo, mica che è al massimo e toni al massimo, cazzo, tutto al massimo deve andare al microfono, va un po' regolato, no? Milumi, mi stava cadendo. Scusate un attimo, Robè, perdonami, adesso ti rilancio. Allora, tono a due, volume mic a 7, 3009 omologato. Vedete un po' come va, a parte la mia voce che non va bene. Quello fa schifo proprio, togli questi cazzo di toni, mettili a zero. Però me l'avevi detto tu di metterli a 2 i toni, 2 era il coso migliore, a 0 è cupo, no? A 0 sarà tutto cupo, vedi un po' come va, 1, 2, 3, 4, 5. Allora aumenta i toni, mettili a 4. Allora direttamente a 5, aspetta, prova. Toni a 5, volume a 5. Anche questa è la stessa cosa di Gianni, però ricordati, il trimmer è chiuso della M, se no non sarebbe omologata, no? Io ti ho fatto mettere i toni a 2 per non essere cupa, ma non sta spingendo, cioè non vedo niente, sembra un microfono normale. Stessa cosa con Gianni, però perché adesso ti metto, che ne so, il mic gain a 10, ecco il mic gain a 10, il collo di bottiglia è sempre il trimmer della modulazione, adesso a 10, vedi un po', 1, 2, 3, ricordati però, i toni, più vai a 0 più è cupa, più vai a 10 più è squillante, più è fine, hai capito? Ma così a questi livelli esce meglio Gianni di te, sicuramente, nettamente superiore, però io in Gianni vorrei che spingesse di più quel microfono, che non lo tenesse a 10, capito? Perché altrimenti, cioè a 10 deve pompare, deve andare, quindi deve per forza tirare un po' su la modulazione della M. Vabbè, lascialo così già. Ti ripeto, per me è mediocre, nel senso che la modulazione è chiarissima, va bene, però come spinta è mediocre, non sta spingendo, capito? Riprendi. Adesso io ce l'ho a 7, regolata a 7, dai. Se lo metto a 10 succede quello che è successo poco fa, che praticamente mi manca la modulazione. Lascia la 7, non cambia niente la tonalità da 7 a 10, va bene lo stesso. No, poi io ci sto parlando un braccio distante dal microfono, guarda. Va bene, ti sto dicendo che va bene. Non ti ho detto che non va bene. Va bene, però io intendo mediocre, perché non ha spinta quel microfono, bisogna farlo spingere di più, avere più preamplificazione. Se tu attacchi il Saletta è completamente diversa, spinge, c'hai gli acuti, c'hai i bassi, la forza microfonica, la qualità è molto migliore, è tutto, quindi è il microfono che non sta andando, non è la radio. Ne buscherò un altro di Saletta, buonanotte, perché quello lì mi sono affettato a lasciarlo attaccato al coso, al Galaxy, che va bene. Col Galaxy si accoppia bene, non lo voglio togliere, ne prenderò un altro, sapete, quando lo busco me lo prendo. Conviene fare così perché Saletta si adegua a quella modulazione. L'MB più 5 mi sembra un po' troppo scarso. Vai Robert. Vabbè, diciamo solo i limiti dei microfoni, naturalmente ci sono microfoni un pochettino più performanti. La radio è chiara, la modulazione, diciamo, qualche carenza ce l'ha, naturalmente non è un TAN, però diciamo è comprensibilissima, pulita, non posso trovare grandi difetti. Dai, può andare meglio, diciamo, si può avere qualcosa di meglio, magari adattando un microfono più adatto, però rispetto a coso, rispetto a Marco Condor, spinge un po' di più quella di coso di Gianni, un paio di decibel di più. Manca il paragone con quella di Marco, spinge molto di più quella di Gianni, ma li ho già detto, però deve spingere ancora di più secondo me. Leia, ecco qua, io modulo a 30 centimetri, contate che ho la voce fuori uso, vabbè, non è novità. Robè, come ti sembra? Se un bel di acuti c'hai, cosa hai fatto tu? Allora li rimetto a 2, i toni, aspetta. Ecco qua, tono a 2, prova, canale 10, modalità M, vedi un po'? questa è un po' più naturale come modulazione rispetto all'altra, al primo passaggio che hai fatto. Se vedete che quei tuni sono ridicoli, perché teoricamente se tu li metti al massimo dovrebbero essere più acuti, invece non è così, la realtà non è così. Sì, bravo. Guarda, così lo metto al massimo, come va? Prova a parlare. Va meglio o peggio? Ma sento un po' di aburuto, manda solo portando. Non ce l'è aburuto, non c'è nessuno in casa, che aburuto sì. Tutto stretto. Scusate, memorizzate questa modulazione, Claudio e Roberto. Memorizzatela, 1, 2, 3, prova. Arrivo subito. Sì, c'è un bel di propagazione oggi. Ma io, stamattina sono entrato qui in questo camaretto e ho una scheggia e va benissimo, abbastanza bella la radio. Oh Gianni, fai una cosa, solo per togliermi un dubbio, avvicinati un po' al microfono. Guarda. No, ma tu sei. Non stai uscendo qua. C'è la Germania oggi. Ti provo già, no, forse che c'era Claudio che non stava uscendo di radio. Avanti qua. Sicuro che era Claudio. Come? Sei sicuro che era Claudio? È 9,60 era, chi c'ho io 9,60? O lui o Pompugno? Non lo so, guarda, adesso sono più vicino, non come va? È un passaggio un po' più lungo. È 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda la modulazione, prove tecniche, trasmissione, cambio. Scusi, come ce l'hai tu adesso? Come mi hai lasciato il guadagno per microfono. Ora è al massimo. Cazzo, c'è una propagazione allucinante, giù metti il copro pure già. Allora prova a passare un pochettino l'amplificazione, poco. L'amplificazione è al massimo, vabbè, cos'altro? Non c'è altro da alzare. Abbassare, non alzare, abbassare. Come è abbassata, guarda. Guarda già, adesso io ho cambiato microfono, questo è un altro microfono ancora, sempre del MB+5, la tonalità diversa è roba. Un po' più di medici hai questo microfono, ma la radio è sempre la stessa? Sì, sempre il Cobra, questo è il sempre il Cobra, capito? Sempre il Cobra, aspetta che tiriamo su l'amplificazione, ecco qua, così è tirata su l'amplificazione. Allora, i discorsi sono questi, guarda, questo, guarda il tono tutto chiuso, guarda che schifo, il tono tutto chiuso, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, eccolo qua, così, to. Ecco, così è a 4 il tono, capito già? Così deve regolare quello, invece io differenza non ne sento. Ah, ulie ulie, tulilem ble blu. Non ho capito chi è. Sempre io. 3009 col trimmer aperto. 1, 2, 3, 4, 5. Stessa impostazione di microfono. Cambia. È già un grido. C'è un abisso, c'è SDR, lo cambia. C'è un abisso, completamente un abisso, capito? Ecco qual è il problema che deve risolvere Gianni. Altrimenti quella radio non pompa, non sento potenza, non sento. Aspetta, c'è la Riccardino, facciamo anche un attimo la Riccardino per i saluti, avanti Riccardo. Ok, questo è di Marco, ma di lì c'è aperto qualcosa, non è naturale con la modulazione, Marco. Allora, il primo era il 3009 omologate, questo è un po' meno omologate, il trimmer della M è aperto, vedo i picchi paurosi dello smitter, conta che a 7, distanza a 30 cm, volume a 7, tono a 2, E quindi, come vedete, c'è il collo di bottiglia nell'altro. È lo stesso collo di collo, sì, collo di bottiglia ce l'ha Gianni. Se capì, andate, vai Roberto. Una domanda, ma il microfono questo è naturale o è stato modificato? Perché è completamente diverso dalla modulazione dall'altro, quella è proprio bella, piena, con tutte le tonalità. Cosa l'hai fatto oltre che toccare il baracchino? Anche il microfono? No, no, questo è come uscito da Fusaro, l'ho lasciato. Beh, distanza 30 cm, così potrei allontanare, poi lo potrei mettere a 10, che so. Adesso a 10, stessa distanza da Mike, 1, 2, 3, 4, 5. Canale 10, Gianni Micoppi. Guarda, così mi allontano. Dall'altra parte della stanza, 1, 2, 3, 4, 5, sono in fondo alla stanza adesso. Adesso stacco, così è meglio. Vediamo il parere di Claudio. Il parere mio è che è completamente, aspetta, sto fischiando e sono in cuffie, ecco qua, il parere mio è che c'è un abisso tra quella radio e quella di Gianni, capito? E quello è il mio parere, quindi quella di Gianni bisogna aprire l'LC. Va bene, Robè, sì, sto andando con il Turner, con l'Expander 500, adesso poco fa ero con l'MB più 5, adesso ho rimesso l'Expander 500, dai. Ok. No, non mi piace Turner, devi provare a regolare i tunnel, ti sei abbassato di radio, i tunnel non vanno bene. Mentre tu Marco eri leggermente troppo alto, abbassa un po'. Prova Claudio a fare delle modifiche di tunnel, sembri Paperino. Delle modifiche di tunnel? Cosa hai fatto la toccare qua? No, così, allora così, 1, 2, 3, 4, 5, guarda così ce l'ho a 2 il tono, bene va. E l'amplificazione a quanto sei? L'amplificazione sono a metà. Prova a massimo e poi la abbassi. Così a metà e così è tutto al massimo, guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5. No, non mi piace, non va bene, a parte che è più bassa di quello MPP5, molto ma molto più bassa, però è, una, è chiusa, sembra troppo compressa. Vabbè, vedi, questo microfono sul Cobra non va bene, quindi sono cose che bisogna provare. Adesso provo il Turner più 3B, quindi ho provato l'MB più 5, adesso provo il Turner più 3B, aspetta, riprendete voi. Sembra la radio quando c'è un lineare attaccato per... Ma non l'ho messa dentro con la pentecchiera. Ciao Riccardino! Ciao Ricca, Gianni senti un po', ha cambiato dall'apparecchio di prima? Ehi, senza ombra di dubbio, però a me stamattina mi ha ascoltato un dirigente, mi ha detto che stavo uscendo bene, boh, non lo so, adesso di colpo sto uscendo male, non riesco a capire, dalla mattina alla sera senza toccare né toni né nulla, non ho toccato nulla. Già, dipende dal metro di valutazione, cioè tu sei capibilissimo, sì, non è amplificata, non spinge, però come dire, non lo so, semplicemente non è molto amplificata, mi hai capito? Tutto lì. Ma ti vuoi sentire, ti registro, te lo mando. Ma l'hanno già mandata la registrazione, hanno scritto che va bene. Già, se va bene tenetela così, non stare a fotti denti. Oh, dov'è Roberto? Questo è il Turner più 3 normale, non è l'Expander 500. Robè, ci sei? È al telefono Claudio, gli ha squillato il telefono. Sono rientrato io. Robè, questo è il Turner più 3. Questa modulazione? Non io di potenza qua, così è la potenza minima, vediamo un po' tirando sulla potenza massima, questa è la potenza massima, 1, 2, 3, 4, 5, non cambia niente, no? Ma un bel totalmente. Con la potenza massima va meglio? E già lo credo, è tutta un'altra radio. Allora lasciamo dobbiamo stare con la potenza massima. Allora tiriamo appena appena su il volume, guarda, così ce l'ho a 2,5, il tamer più 3, non è l'Expander 500 questo, questo è il tamer più 3, normale, va bene? Alla grande, questa sì che adesso è bella, poco fa eri solamente tutto chiuso, tutto compresso, sembrava una modulatore strozzata, adesso sì che spinge, bella, chiara, forte, prova anche l'Expander 500 e fa lo stesso lavoro, vabbè, cosa cambia da uno all'altro. L'ho messo dentro l'armadio, roba e serbiglia il culo, dai. No, non mi interessa. Lasciamo questa e basta, dai, va bene, ok. Quindi ottimo per la truppa. E a te va bene, Marco, questa? Sì, sì, io sono di bocca buona, a me va bene un po' tutto, e Claudio. Che te devo dire? Poi vabbè, io non li distingo molto, non ho l'orecchio allenato come altri, un po'. Va bene, adesso tolgo tutto l'ambaradan, comunque per curiosità lo rimetto all'apparecchio di prima, dai. E basta, dai, riprendete voi, sono un po' stanco, non ho molta favella. Dai, riprendi, vai Riccardo, vai. Un attimo, Marco e Gianni, canale 40, un attimo. Quando sta a parlare un attimo con Claudio. Aio. Cosa, Riccardino, non ho capito. Ma Robè, posso tirare su l'amplificazione? Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, la posso tirare così o va bene? No, no, c'è ancora altro limite, va bene anche così, c'è al massimo di amplificazione. Al massimo, non sono neanche a metà, cos'è al massimo? Così è a metà, guarda, 1, 2, 3, 4, ecco, così è a metà. Così ho superato la metà, la metà, la metà, ancora, ancora, guarda, guarda, guarda, guarda, ecco, guarda, guarda, guarda. Così è al massimo. No, no, no, abbassa, abbassa, almeno della metà. Quadrato. Aspetta, ricambio un attimino. Allora lasciamo stare così, dai. Va bene così? Sì, sì, sì, giusto, amplificazione, già va bene. Ok, dimmi Ricca, non ho capito. Avete parlato in due, poco fa non ho capito. Ah, ok. No, stavo dicendo che alla fine l'abbiamo scaricata quella roba, quella che mi hai dato. L'hai vista, c'è qualche lavoretto da fare, dai. Poi ce ne sarebbe un'altra, però dobbiamo aspettare una risposta. Cosa volevo dire? Ma ti va bene, avete la metti dove c'è le radio in quella specie di tettuia? Non lo so, perché ho visto che c'è un po' di roba da fare, voglio cambiare il piano, poi devo rifare i cassetti, oppure fare qualcos'altro che posso fare. Oh Robè, ma l'antenna la facciamo domani mattina? Se vuoi venire, tanto lavoro veloce mica. Se c'hai tempo mi fa piacere, se no pazienza, la facciamo un'altra volta, dai. No, se ti ho detto dopo che porto il cane vengo verso le 10 meno un quarto, 9 e mezzo, dai. Verso quella lì mi avvicino e ti do una mano e la tiriamo su. Ti sei sentito con Massimiliano? Ha detto per il momento o no con la studio? Sì, me l'ha detto perché è incasinato e deve prima spostare i divani, togliere tutta la roba, eccetera. Vabbè, mi ero dimenticato, dai. No, io l'ho già montata, tutto a posto, non c'è problema. Va bene. Stavo dicendo Riccardino, adesso me ne sono dimenticato. Allora, se vuoi un consiglio, come ha detto tuo padre, senza fare niente di complicato, rimetti di vernici quei piedi con la struttura in ferro, li metti uno strato di gomma, quella la vendono anche a rotoli, gliela appoggi sopra e poi ti fai ripiani come me li sono fatti io, arretrati. Quella è molto larga, ci puoi anche mettere il computer sopra se vuoi lavorare, se vuoi scrivere, ti metti un bel block note e ti fai ripiani, senza fare niente di importante, tanto è una cosa da lavoro, è come che sia un manco di lavoro. Non fare nient'altro di quello che ha detto tuo padre, un rotolo, quello che vendono a metraggio a rotoli, li metti quel linoleum si chiama, quella in gomma, sopra, così fa anche da insonorizzante, eccetera, e la appoggi, lo ritagli bene e poi ti metti un altro ripiano con i piedini e ci metti le altre cose sopra, l'alimentatore, la radio, vedi un po' tu cosa fai, e te la fai a piani come ho fatto io, che è abbastanza larga, e vedi vedi che è carina. Naturalmente non è da mettere in casa dentro l'appartamento, perché è, diciamo, un po' messo a maluccio. Poi se te la vuoi mettere in cameretta, ti do anche l'altra, quella con il piano per computer che c'ha la mensolina, quello è nuovo, ci sta bene anche in cameretta. Se ti vuoi mettere qualche baracchinetto, che tuo babbo mi ha detto che vuol mettere un'altra antenna. Ok, io però direi di fare prendere a Gianni, che è in parcheggio da un po' avanti. Gianni, doppio rum. No, parlate. Ci sono questi tedeschi oggi allucinati, 9 più 10, sono in banda laterale, in FM. Ok, Claudio, comunque va bene, sei riuscito a farci la sale con la specie di tavolo con le ruote? Sì, ho sistemato le ruote, gli ho messo il vinavi nuovo, le viti nuove. Perfetto, già fatto. Vabbè, dai, sono contento, almeno te lo utilizzi. Poi la lampada in kiwi, tanto è inutile, almeno se la vuole qualcuno, non è niente di pregio, però può essere utile. Alberto. Dimmi, Erika. Ma che è il tuo babbo? Ballo, ho capito male lui. Ha detto che è importante, sì, ha detto che gli altri si ha promesso a qualcun altro, lo devo studiare. No, l'ho promesso a te il porta-PC. È il porta-PC che c'ha il ripiano allungabile e in più c'ha due mensoline a ripiano sopra. C'è un'altra scrivania più piccola, tipo quella che ti ho dato io, però più nuova. Quella l'avevo promesso a un'altra persona e aspettiamo un pochettino. Per il momento ha detto c'ha dei lavori in casa e aspettiamo un pochettino. Se pure non la vuole, tu sei prenotato. Ok, comunque lo so. No, per dire così, spero che non la prenda, perché mi interessa, perché mi interessa molto mettere dentro gli apparati. Come vuoi tu, dai, non c'è problema. Aspettiamo però, perché prima è meglio parlare con la persona. Quando si dà una parola bisogna sempre cercare di mantenerla. Ok, vediamo un pochettino, Marco, facci sognare, avanti. Marco, deceduto, vai là. Marco ogni tanto cade a fondo, vabbè dai. No, questo alterno più tre non l'avevo ancora regolato, adesso che me l'hai regolato lasciamo questo al posto dell'MB più 5. No, già spinge forte questo. Diciamo qualcosina di più dell'MB più 5 spinge, però sono due modulazioni diverse, dai. Fate una un po' più da combattimento, sono belle tutte e due, vanno bene tutte e due. No, vabbè, che siano da combattimento mi piace, ma la timbrica, la qualità di modulazione in questa Altana più 3 è superiore a quella dell'MB più 5. Mi sembra di sì, vorrei risentirle un attimino, ma a memoria di orecchio mi sembra un po' meglio questo. Anche Giulio mi aveva detto così, dai. Va bene, lasciamo stare questo allora, dai. Poi i microfoni, grazie a Dio, già non me ne mancano, quindi ne ho ancora da provare col Cobra. Però già due sono abbastanza buoni, sia il più 5 che il più 3 e anche l'altro. Adesso mi devono portare un Egain quinto perché c'ho il microfono. Quel microfono che ti ho detto, io lo devo provare con la sua radio. Forse me lo portano domani o domenica mattina, capito? Un Egain quinto base da provare col suo microfono da tavolo, quello che c'ha la regolazione sull'asta. Ehi, bello, dai, sono belli quei vintage di americani, sono troppo belli, dimmi Rita. Ma non mi hai risposto, cosa ne pensavi che te l'ha detto babbo di quell'RC213 1 euro al metro? Ma io ho dei seri dubbi, l'ho visto anche io con la 0,95 al metro. Io ho dei dubbi, è un prezzo troppo basso. Vediamo che cavo è, perché ci sono anche le limitazioni dei cavi, non vuoi che sia roba cinese, anziché usare rame, usano delle leghe. Abbassa, ad alta perdita, non a bassa perdita. È un prezzo troppo basso, perché io dico sempre il presupposto fatto che nessuno regala niente. Da 3,50 al metro portarla a 0,95 stiamo parlando meno di un terzo del prezzo. Ci deve essere il guadagno loro, per cui anche per dire, se te lo danno a 1,50 vedo dei dubbi, però te lo danno a 0,95, sinceramente un po' così. C'è qualcuno però, se volete un cavo, lo fanno a 2 metri, la battaglia da 50 metri a 2 euro al metro, qua a Sassari, cavo certificato e tutto, se vi interessa, perché prendere un cavo, io non vorrei che hanno sbagliato ed è un cavo, ma hanno scritto RG213, e questo è il dubbio mio. Ascolta, vabbè, adesso ho cambiato ancora qualcosa, la modulazione ha cambiato, va bene così? È più forte adesso. Più forte di modulazione, no? In pratica cosa ho fatto? Ho tolto la potenza alta della radio, San Bassa sto andando col linearetto circa 60-70 watt, va bene? Sì, blu troppo, pure troppo alto, sì. Comunque alla fine ho risolto con la storia del microfono. Hai risolto con la storia del microfono? Delle 25. È arrivato? No. E aveva vestito due soldi? Praticamente ne ho preso un'altra, ho preso di fuori e che finora me l'hanno già spedito, devo andare. È quello di Fusaro? Quello di Fusaro mi ha fatto ridare i soldi e mi voglio prendere questo Prozone MP5, non mi prendo un altro MP5. Ho visto molto che bello un Turner Plus 3. Un Turner? Turner più 3, era scritto in inglese. Oh, vabbè, dai, io vado a mangiare, ragazzi, vi saluto, un abbraccio a tutti, se coincide a dopo, altrimenti a domani, ma penso che più tardi entro, intanto mi pare che non c'è niente alla TV, dai, poi domani è sabato, quindi, sì, vabbè, fammi portare il cane, 10 meno un quarto sono da te, aspettami, così quando chiudi facciamo quel lavoro, ok? Sì, ok, dai, ci sentiamo domani, dai, se coincide ci sentiamo dopo, se no direttamente domani 9:30, 10 meno un quarto in officina, dai. Ok, riprende il mic Riccardino, questa settimana Gianni doppio rumo, dai, che mi dispiace un po' troppo nel parcheggio, avanti Gianni, dai, non ti demoralizzare, assolutamente sta andando bene, magari si può perfezionare la situazione, per il momento va bene così Gianni. Vabbè, non sono demoralizzato, intanto mi sono ascoltato, poi ho ricevuto diversi messaggi che mi hanno mandato dicendo che la radio sta uscendo benissimo, che non c'è niente da dire. No, allora Gianni, non confondiamo le cose, nessuno ti ha detto che sta uscendo male, sta uscendo bene, non ha detto nessuno che sta uscendo male, potresti migliorare, come io facevo schifo, adesso la colpa di più io, ma non è il caso tuo, tu stai uscendo bene, però confrontata con la radio di coso, di Marco, la prima ti fai 10-0 tu, con la seconda radio, con quella modifica, non so cosa abbiamo fatto, è molto migliore la sua, spinge di più, c'ha il guadagno del microfono che funziona, che cambiano le tonalità, tutto. Purtroppo con quel tipo di regolazione originale della casa non hai la possibilità di effettuare i controlli di regolazione che c'ha la possibilità col microfono che sta utilizzando, tutto qua il discorso, però la radio è 5, è chiara, è perfetta e boh, chiudiamo il discorso, se no sembra che siamo polemizzando per un microfono, anzi ti ripeto ce n'è gente che lo vorrebbero con la modulazione, però c'è sempre il limite del miglioramento, io dico. Io invece dico, come fa la gente a mandare dei messaggi e dire mi hanno detto che, ma già, sono cose che non bisogna fare queste, perché nessuno ti ha detto che stai uscendo male, io ti ho detto semplicemente che non sta spingendo come deve spingere, potresti migliorare, ma la modulazione va bene, quindi a quelli che ti hanno mandato i messaggi e che ti hanno detto di fregartene, dille a mettersi la cuffia e ascoltare bene e capire le differenze che c'è tra un microfono che spinge e un microfono che non spinge, ma che mi lasciano i coglioni. Oh Claudio, ma gliel'ho detto anch'io, stavo uscendo bene, bisogna solo aprirgli la M e basta, come ho fatto con questo. Oh, io adesso ce l'ho a metà il microfono, l'MB+4, però se lo metto a manetta penso che amplifichi ancora di più. Fare con correggiare, è un'altra timbre e basta. Comunque vi avviso, da oggi in poi almeno mi chiedete più controlli di radio, consigli, come va, come non va, perché non vi rispondo neanche, visto che ci sono i sapientoni che mandano i messaggi e che contraddiscono le persone, che danno il suo parere per far sì che si esca meglio, ok? Quindi a me non mi richiede più perché io controllo non ho più nessuno, arrangetevi. Ciao Robè, ci sentiamo dopo. Aspetta, dammi un controllo, Claudio. Anche a me. No, semplicemente, no, Italia no, questo è locale. Semplicemente 100 orecchie e 100 controlli differenti, Claudio, Torì. Infatti Gianni, per me andrebbe bene così. E come gli dicevo anche a Natalino, a me preferisco anche una modulazione pacata, non troppo esasperata, perché alla fine per i questioni locali va bene così alla fine. Io trovo Marco, ho 40 anni di esperienza di radio professionali, non ascolto con baracchini del cazzo, ma ascolto con radio professionali. professionali. Ho ascoltato Gianni col 756 e lo Jason FT950 con il filtro stretto, con il filtro largo, la modulazione va benissimo alla grande. Io ho semplicemente detto che può spingere di più perché quella radio è chiusa, o è la radio chiusa o il microfono che non funziona, tutto qua. Comunque non ci puoi manelare con i coglioni, scusate il termine, e varrangetti, grandi scelti mari, a me non mi zecchetti. Sì, ma io ho capito, già l'ho capito, poi può piacere o non piacere, ma poi già te l'ho detta, io quando prenotiamo un intervento, che poi è tutta roba che sai già fare, no? Ho detto tra noi. A me l'ha detto Marco. No, no, Claudio, no, non gli sto dicendo il contrario, Claudio, ci mancherebbe. Poi può piacere o non piacere una modulazione, quello sì, è tutto lì. Va bene, aspetta che sento Bulotto qua. Marco, io per l'intervento sono pronto. A Casablanca te lo fa l'intervento, Natalia? No, no, li faccio io gli interventi, io che te ne aseguo. Però se vado a Casablanca ti faccio cambiare il coso, il connotato. Chi è che sta chiamando? Ehi, controllo il segnale, anche Marco, fa favore. E tu dove sei? A casa di Giovanna. E perché sei così in basso? Dici verso l'antenna che sei più basso del su. Ce l'ho nel terrazzino, ce l'ho l'antenna, solo che ce l'ha andata. 9 più 20, l'altro giorno è più forte. Ma io mi sento tutti bene, quindi figurati, io affronto benissimo qua. Sì, certo, io non mi vedo segnalato, ma veramente se ti ascoltano quelli che sono più lontano. Riccardo, l'ascolti ad Antonello. Basso, lo copre la propagazione. Segnale 4 mi ascoltava l'altro giorno, segnale 4 mi ascolta oggi. Capito, il terrazzo grande che... Casino, cioè deve attraversare il palazzo, hai capito cos'è questa questione? Ma se metto, li ha messo una canna da pesca tu. Sì, ma l'ho messa per terra, secondo me l'ha messa sopra il tetto. Ma di ormai usciva meglio con la tenina dentro il termosifone. Sì, non il termosifone, è la caldaia. Vabbè, quello che era, mi pare ci avete lo stesso segnale, anzi, se vuole essere pignolo leggermente più basso. Vabbè, io ti ascolto, ti hai presente perfettamente radio 5, 9 più 20 il segnale, niente da dire, però considerando che siamo attaccati dovresti spingere un po' di più, come cosa? Fabio Matte, ieri era 9.35, da 9.5 è salito a 9.35. A seconda della zona, hai capito le cose quelle. Avete parlato in due, Gianni, tu eri sotto. Sì, ho detto che qua mi sta arrivando Santiago 3 addirittura, c'è la propagazione che l'ho copia. La propagazione ce l'ho, Santiago 9 qua, ma voi siete tutti oltre 9.10, 9.15, 9.20, a parte vabbè Marco e Claudio che sono attaccati, se no non vi avrei sentito. Quelli di Porto Torres, forse con le pinze tiravo fuori Eugenio che arriva a 9.5. Beh, ciao a tutti, io me ne vado, vai. Vorresti per me. Tata, e tu che devi uscire bene, cacchio, con tutto quello che avevi prima di diventare un buh. Non posso fare nulla. C'ho l'antenna che esce un metro dal tetto, quindi vedi un po' come sto uscendo. E poi c'ho un'antenna del cavo. Non ho certo la mandorla. Vabbè là, ci sentiamo a tutti. No, se avevi la mantova la mettevi bassa lo stesso, uscivi basso lo stesso. Lo so, ci vogliono almeno 3 metri fuori dal tetto, io lo so. Ciao Natalia, ci sentiamo alle prossime, vai Riccardi. Quel cuomane di Natalino, come mi chiama lui. Mia, il più forte del mondo, di Riccardino, ho visto là tutte le cose che mi dice. Che casino che c'è. Anche che sta fischiando. Ciao a tutti, là, me ne passo in QRT che mi guardo un po' di TV. Ciao a tutti. Perché? Perché che sta fischiando? abbassato a 9,10 con la magnetica prima di 9,20. E sono sceso a 9,10, quindi ho ragione io che miglioravo. Non lo so, l'altro giorno io ti ascoltavo più o meno con questo segnale, pensavo con la... Ieri infatti mi ha detto stavo scendo con la canna da pesca, e ci voglio vedere, sono curioso. C'è qualcuno lo sta accordando e stava andando a portarlo. E vabbè, la magnetica è quella di stanno schiacciando adesso, questo è 9,25. Non sei tu Gianni? Boh, qualcuno sta provando qualche lineare. Ok, vai Luca, avanti a te. Sto rispondendo. Aspetta, vai Gianni. Se non sono io, ti ho risposto ma con l'altro microfono, ho sbagliato premendo. Ero io Roberto, stavo accordando sul canale 12, scusa. Tu eri qua? Sì, stavo accordando lineare grande sul canale 12. Ora. Ah ok, vabbè, come ho detto. Luca, sei entrato mi pare, fatti sentire. Luca del Monte. Luda, Luca entra e fugge. Ok, vai tu Riccardo. Va bene, vado io. Comunque Antonello lo sapeva la propagazione, lo già scorso sera. Certo Germania, amico. Anche sotto di te si sentiva addirittura questo, è fortissimo. Attention Germany, do you copy Italy? Attun Germany, Kartoffel, Telefunken, Volkswagen. Audi, NSU, Prince. Vabbè, guarda quanto è segnale. Parla, parla. Ah sì, si arriva, al DB. Certo, sta a fondo scarpa. Ma qua sta usando? L'FL2100. No, no, è forte. Vabbè che arrivi forte comunque, anche se c'hai 10 watt arrivi sempre a fondo scala qua. L'FL2100 questo. Però devo accordare meglio. Vai, così è la minima potenza. Questa è la minima. Ora, ora. Cosa vuol dire minima? Vuol dire minima, minimo accordo, minimo watt d'ingresso. Questo è un decametrico, quindi no, non ho problemi di darle un watt, due watt, sino a 100 watt. Adesso le sto dando l'ingresso minimo, perché è la lomba fermo. Minima intendo, non so cosa vuol dire minima, ma intendo di watt, la minima, a quanto corrisponde? Di questo del Cobra, una trentina di watt, 25 watt. Picco 50-60, ma dopo faccio, adesso lascio scaldare, poi faccio un passaggio con la potenza massima, 100 watt, 120 modulati, vediamo se non scoppia qualche valvola. Ok, allora riepiloghiamo qua, chi c'è su questo canale avanti, inizia Riccardino, poi c'era Doppio Room, Luca non so se vuole entrare e Marco Condor, vai Riccardo. Yeah, va bene, vado io. Comunque, il discorso, noi non sappiamo di cosa parlare. Comunque, con l'MB+5, se riusciamo a fare di nuovo le connessioni, te lo utilizzi su quell'apparato, Riccardo. Ah, ho capito, non lo so, adesso vedo. Dai, è che non ho tempo di niente, sto facendo tante di quelle cose, non riesco a trovare un buco per fare neanche le cose semplici. Sto finendo quel cavolo del camper, sono 3 giorni che l'ho abbandonato, non ho fatto niente. Per cui mi viene anche male a farti con le connessioni. Allora, ti sta addirittura disturbando questo qua, perché se è basso di radio, non di segnale, questo tra me francese e tedesco, se lo sento sotto, figurati quando stanno arrivando furti questi qua. Ok, aspetta, facciamo un'altra chiamata generale, attenzione, canale 10, chi vuole entrare, se no riprendi tu Marco. Ehi, propagazione si è alzata, non ce n'era prima. Ehi, mamma mia, che cavolo, non te la prendere, no? La storia dei controlli, te l'ho detto, tanti apparati, tante orecchie diverse, tanti controlli diversi. è tutto lì. Cioè Gianni è, basta che sia capibile, io mi accontento, per dire, ma anche Roberto penso, eccetera. Sì, non è una modulazione esasperata, ma cioè, sappiamo già cosa fare, se lo vuol fare Gianni, perché Gianni un po' ha il terrore di toccare, anche se è una fesseria, un team della M, cioè chi è che non lo sa fare? Magari non lo vuol fare, non è obbligato. Va bene, dai, riprendete, vai Claudio. Ma se si fida dei sapientoni che le mandano i messaggi, gli hanno detto che va bene così, e allora va bene così. Io controllo, non glielo più, poi si arrangia. Io esprimo il mio parere da professionista, perché lo sono, sono un professionista della radio, ok? Quindi se esprimo un parere, quello è il mio parere. Nessuno ha detto che sta uscendo male, io ho detto che può fare molto molto di più. Poi se ci sono i sapientoni che le mandano il messaggi, le dicono di lasciare tutto così, che va bene, allora stare così, che cazzo me ne frega mai. Ma tu te la prendi troppo. Ci saranno chissà quante persone all'ascolto, magari gli hanno mandato qualche messaggio. Io gli avevo detto già 27 com'era. E tu te la prendi troppo, dai. Perché sono un professionista, quando io do un controllo, do un segnale, do un mio parere professionalmente, a me che cazzo me ne frega di quelli che mandano i messaggi, che entrino in radio, esprimano il loro parere, facciano capire se hanno l'intelligenza di sapere, di conoscere e di anche di ascoltare un microfono e darmi le percentuali, le tonalità, com'è e come non è, invece mandare messaggi. Ma che cazzo stiamo dicendo? Ma che vadano a cagare. Va bene, dai. Eia. Dai, riprendete, poiché io sono cotto sempre. Di propagazione, quando è così non mi piace niente perché non si capisce niente, se sono in banda laterale, in FM, tutto un disturbo, amici. Ok, cosa volevo dire? Luca, se ci sei, batte un colpo. No, no, ma intanto ci vado a mangiare, dai, così scalda questo amplificatore, poi me ne vado un po' in determinate decametri, che in 10 avrò se pizzico qualcosa, magari qualche country importante, dai, ok? Poi magari ci sentiamo più tardi anche qua in 3x9. Ok, dai, ciao a tutti, ci sentiamo. Sì, ciao Carlo, naturalmente se ci sono ci sentiamo dopo. Vai Riccardo per Claudio. Non c'è, vai Marco. Ah bozza, roba di segnale, mamma mia. Robert, ti volevo fare una domanda. L'altro giorno tu hai detto che sei un estimatore di quell'attore che, porca miseria, adesso non mi viene il nome adesso. No, l'abbiamo nominato l'altro giorno, Manfredi. Non è che per caso alcuni giorni fa hai visto il film Il giocattolo? No, in questi giorni non ne ho visto televisione, poco e niente, ho cambiato qualche attimino di notte, ho girato, ma mi sono come dormito. Io l'ho beccato per caso, aspetta. Comunque saluto a Claudio, buona carica a tutti. No, giusto, scusa, buona cena Claudio, è fuso sono, vabbè, comunque c'era quel film, era di un triste, mamma mia, proprio una cosa strappalacrime, bello eh? Guarda, dimmi, raccontami più o meno, perché è base di una donna che la trattava un po' maluccio, quello lì. Allora, si intitola Il giocattolo e si parla di armi. Lui praticamente è tipo un prestanome di una grossa azienda, no? Deve fare da portavalori, c'ha tanto di scorta, eccetera, no? Un giorno si trova in un supermercato o in banca dove c'è una rapina, rimane ferito in uno scontro a fuoco alla gamba, da lì conoscerà un poliziotto, si piglia il porto d'armi e proprio il prendere l'arma gli distruggerà tutta la vita alla fine. E poi la moglie era malata, mamma mia, una cosa strappalacrime, veramente triste. No, non l'ho mai visto, no, io ne ho visto un altro, di quel genere che lui la trattava male, tipo una ballerina, cosa del genere, poi ne avevo visto un altro che che c'era una rapina, non so che cosa, che lui poi è diventato amico di quelli che hanno fatto la rapina, li ha aiutati, tipo complice, ha detto fate così, state attenti a non fare così, cioè gli ha dato delle indicazioni, cioè da vittima è diventato lui il capo della banda. Ci sono questi in banda laterale che disturbano tantissimo, o ti avvicini al microfono o alzi la voce. Io ti consiglio di avvicinarti un po' al microfono perché quasi non ho capito, mi hai parlato però quasi non riesco a capire perché sei troppo basso di radio, il segnale è 9+20, però la radio è in mezzo a tutta questa mondetta che sta arrivando. Ok, stavo dicendo, ho saputo che in 7 megahertz che le radio sono in 7 megahertz. Ci sono, allora, i 7 MHz, la 7003 è la banda dei 40 metri, ovviamente ci sono i radioamatori, se vuoi ascoltare le broadcasting devi scendere molto più in giù, diciamo ci sono anche su quella frequenza lì, sui 7000, se vuoi ascoltare radio broadcasting internazionale con l'intercontinentale devi scendere giù dai 500 kHz in su fino ad arrivare ai 1800, 2000, 1700, dai, le radio più grosse sono di lì sotto, quelle onde lunghe. Ma, scusate, posso? Prego Luca. Ma siamo in 3, in 4, ma perché non vi lanciate uno con l'altro? Ho parlato uno sopra l'altro, boh, assurdo eh. Cosa hai parlato? Ti ho rilanciato 10 volte Luca, non sei mai intervenuto. Cazzo, è allucinante. Boh, sei di un'altra, devo vedere, ci sono già 10 minuti. Ce ne parlano uno sopra l'altro. Ma mica la propaganda, non stiamo parlando uno sopra l'altro. Gli ho detto, ah, forse non ti sa quando c'è propaganda, siamo in 4, non è entrato, perché prima c'era anche Claudio. Ti ho rilanciato tante volte, però non sei mai entrato. Io a Riccardino lo sento, sotto a Riccardino sento questi, buh, cosa sono, tedeschi, non lo so. Ma stai parlando con Marco, due, tre volte uno sopra l'altro con lui. Adesso Gianni voleva entrare per salutare, e non avete lasciato un po' di bianco, avanti Gianni. Vi saluto tutti cordialmente, buona serata. Luca, sta andando bene adesso il microfono? La grande già, la grande, perfetto. Scappa, dai, va bene. E quando lo metti a manettone che lo fa, capito? Se invece non ce la fa, e se lo metti a 9 invece che a 10 non lo fa più. Non c'è bisogno di mettere la manettone, ce l'ho a 5 io già, e già è alto. E ma dice che non spinge, boh. Ehi, ciao Gianni, no, ti ho rilasciato anche te un paio di volte e mi ha detto sempre no, rimango in ascolto, e per cui cosa dobbiamo fare? Non è che io devo sapere se poi quello vuole entrare, io non ti ho sentito, se no ti avrei fatto entrare come hai sentito a Luca, gli ho detto entra e poi non è entrato, due o tre volte l'ho rilanciato, allora abbiamo continuato a parlare noi. Vabbè, non c'è problema, io dovevo solo salutarlo, ma ne volevo andare con gli asini senza salutare, questo fa più. È giusto, ma non ti ho sentito, se no ci mancherebbe, che cacchio ne ho da fare una cosa del genere. Va bene. Che avanti? Sono sempre io. Questa com'è la modulazione? Ti sei abbassato un po' di segnale, fra comunque. C'è sta il segnale, sto provando una cosa. Dimmi com'è la radio. No, è chiara, è buona. Meno spinta dell'altro, ma la radio è buona, pulita. Ok, va bene, dai, a dopo. Ok, ci sei Luca? Dimmelo, vabbè. No, il discorso già lo sai che a me non mi piace fare polemiche né niente, sono con un primo, però io a Gianni, come ho rilanciato a te, l'ho chiamato un paio di volte, e detto no, rimango in ascolto, ho lasciato anche del bianco più di una volta, poi se ci siamo sottomodulati io e Marco non me ne sono accorto, ci mancherebbe, ho rilanciato un paio di volte a Riccardino, non è che avremmo fatto monopolio. Ma sono 10 minuti lunghi, prima sentivo fischiare, sblatte, fischiando, boh. due volte, tre volte. E conviene rilanciarlo uno per volta, se vi richiamano per rilanciarlo, se no non si compra niente. A parte la propagazione che c'è sotto, avanti Marco. Sì. Sì, purtroppo Robè, abbiamo parlato assieme, me ne sono accorto, perché io come vedo bianco certe volte, anche quando non rilanciato, magari voglio fare la battuta, per esempio l'ultima cosa che abbiamo detto assieme era che Riccardo, cioè quelli di segnali bassi coprivano la modulazione di Riccardo, sentivo le voci sopra quella di Riccardo, pur essendo i segnali più bassi, perché Riccardo certe volte c'è sta vocina che non la sento, già non la sento normalmente, figurati con sta propagazione di oggi. Oh, scusatemi un attimino, dai, mi aspetto qualche minuto, ci sentiamo tra poco, dai. Ciao Riccardo, ciao Luca, ciao Marco e tutti gli eventuali amici qua su Canale 10, a più tardi, dai. Leia, ciao Robè, ciao, ci sentiamo. Ciao Robè. Questi qua uno schifo, gli ho detto di scatto, veramente va in banda FM, ma dai, dai. Oh Robby, non c'è più Roberto, ha chiuso qua, andiamo a dire sicuramente. Volevo farle sentire col microfono della Gain, va bene, dai, ok, ci sentiamo Luda. Mi ascolti bene di radio, Luca? Va bene, dai, questo microfono... un microfono che forse non c'ha nessuno stesso. Ok, ci sentiamo dopo al limite, dai, ciao ciao. Ok, ciao Claudio, io vado in carica e ci sentiamo più tardi. Ciao, caricando ho fatto un bel passo. Ok, se siete in giro domani mattina io sono da Roberto e dobbiamo tirare su un'antenna, capito? E ciao, saluta Babbo, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao. Luca, roba in FM, roba in banda laterale, tutti qua, tutti allo 10. Marco, ho fatto un giro adesso, tutti da 10, sono matti di rivalia, pacca di daia. Sì, vabbè. Comunque me la speditavo io alla radio, perché dice che ieri il Corriere non è andato a prendersi il papo, che era sua. Marco, il suo arriverà lunedì o martedì. Deia. Probabilmente martedì, perché sai, sabato e domenica è giornata morta, non lavorano, comunque non fanno nulla, sai, poste, sedia, eccetera. Pensa che, te l'ho detto, una settimana era passata per quella cosa lì, una settimana, è rimasto fermo 3 giorni a Bologna, tipo, roba del genere. Poi sarà il Covid, sarà quello che vuoi. Beh certo. Non vedo che ti dica. Aspettiamo. Porca miseria. Mi piacerebbe mettere in linea retto, entrare in banda laterale in FM e dirgli di andare a quel paese, a questi crucchi o francesi che siano. Ma l'hai sentito fischiare, o Luca? Lo sai in che canale ero io? Eh? Nel canale 20. Ha giocato un incozzolato da uno, pensa che è parito, eh. Sentiamo fischiare poco fa, ma un bel, sentiamo un bel di sbratte. Ora non so che canale ho girato, però non l'ho trovato. Ero io, nel canale 20 ero, con l'amplificatore attaccato, ma l'amplificatore è quello grande, tutti i pariti ciò. Ah, tu, che cazzo. aspetta dopo, che riattacco, lascialo scaldare, che sta scaldando. 1200. Ah, valvolare. Il decametrico, l'FL7100. Il TL esiste, ce l'hai sempre, il TL com'era? 922. No, quella era della Kimbo, questa è della Yaesh. Ehi, è tutta roba bella. Per quello ho cambiato il radio, capito? Ho messo il baracchino, l'antenna, la 27 l'ho messa qua, perché è pericoloso quell'amplificatore, non vorrei che mi facesse rientro di RF e mi crepa il 440, allora l'ho messo qua, un baracchino vecchio, capito? Come si può fare a prevenire rientri di RF? C'è qualche sistema particolare? Io quando uso l'amplificatore uso la direttiva, adesso ce l'ho puntata a nord, è proprio sopra l'UKM. La tre elementi in monobanda è proprio puntata sopra l'UK, passa in mezzo, ma poi mi sposto verso a 270 gradi, verso i punti. Mi, è questo cruco, mettili la portante, è tutta la sera che ci sta oscillando. E lasciala oscillare, agitala voi, che questo laggiù io è la gugliuppa. Okay, io già è dura, mi dico quando gli attaccherò mangaglio, cosa succede? Poi c'è uno in mal laterale, mia, persino più forte quello. E da poco fa che sta chiacchierando. Ma guarda cosa mi mandano qua. Che cagazze. Anche tu l'ha messa. Sono quegli effetti speciali che puoi usare agli smartphone, no? Puoi fare la voce da paperino, da orco, da l'effetto eco, l'effetto cattedrale, tutte quelle cagate là. Alla fine WhatsApp è solo per le cagate si usa, per quanto mi riguarda, non per cose serie. Ma infatti, alla fine come dici tu. Vabbè, dai, vado a mangiare, a dopo signore, ciao. Buon appetito. Luca, dai, io adesso devo dare un'occhiata al computer, stavo facendo roba, ho interrotto, porca miseria, anche roba lunga era da fare. Dai, sentiamo, buona serata con tutto, idem con patate come per Riccardo, se ancora l'ascolto, ciao. Via, ciao Marco. Ciao Marco, a dopo.